Italians. Italienne. Italianas. Italianas. Con la valigia. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. O stai ad aspettare? Punto, stavamo scherzando. Non avevo mica chiesto veramente. Questo è fuori. No, ma hai ragione. Senti, ma dovevamo fare l'angolo di Laura musicale. Eccolo qui. Ma avete detto cantala, cantala. Poi appena può, boom, canta. Sì, però Laura in questo senso aveva ragione. Perché insomma la sua canzone ha tema. Il tema della puntata, finché la barca va, lasciala andare. Perché? Perché oggi andiamo a trovare un italiano con la valigia che non si è accontentata di fare la valigia e andare in un paese straniero. Adesso si trova a distanza a Genova. Esatto, sì. Un sacco di genovesi hanno raccontato delle storie. Orgoglio genovese. Ho preso troppi caffè, adesso non riesco a star ferma, vedi che mi muovo anche con le gambe. Secondo me è l'emozione del nuovo studio, tutto questo studio. Ci sentiamo queste voci così. Mi gasa. Ma poi anche questa esperienza di oggi, di questa ragazza che si chiama Valentina, che così è partita da Genova e sta visitando il mondo intero a bordo della barca sulla quale lavora. Sì, un super yacht di lusso. Io e te, Deborah, non ci capiamo niente, ma... No, è quello di Laura che gli ha prestato. Però. Si chiama Mega Yacht. Quelli che Laura costruisce? No, non più. Non più. Ma potrebbe, così, non si potrebbe, sì, ma non più perché... insomma, è impegnata con la radio. Poi sai che i servigi di Laura costano, eh. Non è che adesso uno si può fare uno yacht così con 4 lire, eh. Allora, mi avete un po' stancato, No, no, ma è vero, ma io sono... No, scusami, ne parlava di casse stereo da 200.000 euro, voglio dire. L'altro giorno siamo in spiaggia e io vedo uno yacht, mi sembrava una gran figata, da lontano dicevo, oh, guarda Laura, guarda che bello quello, mi guarda e fa, Maddalena, quello è un ferro da stiro vecchio. Proprio mi ha stesa, quando capisci niente di yacht. Insomma, oggi ripartiamo con la barca e andiamo a trovare Valentina. Lo yacht, qua la barca sembra una barchetta. Ma sono quelle che vedi tu, quei ferri da stiro, che vedi la barchetta. Carichiamo le valigie. Carichiamo il baule. E andiamo a salutare Valentina. Ciao Valentina, benvenuta. Ciao ragazze, grazie. Allora, dove ti trovi? Perché è interessante da dire. In questo momento sono seduta su una comodissima poltrona e mi stanno facendo una bellissima pedicure rilassante. Oh, brava. Quando ci vuole, ci vuole. Sì. Dove sei adesso, in questo momento, a parte la pedicure? Adesso sono da ieri sera, sono tornata a Genova un paio di giorni. Più che altro per salutare la mia mamma e poi devo rientrare a lavorare. Dove sei stata quest'estate? Quest'estate abbiamo fatto un bel giro, siamo stati più che altro Ibiza, Formentera e poi Costa Azzurra e Sardegna, ultima tappa. Tutto questo cos'è, vacanza? Noi ti chiedo, cioè, sì, da lavorare magari. Dove torni? Racconta, non ho capito niente. No, io adesso da 5 anni lavoro, anche 6, ormai non tengo neanche più conto, lavoro su yacht privati. In realtà io poi rimango chiusa dentro la barca, non è che scendo molto. Quest'anno è stata la prima eccezione che siamo riusciti a scendere, a fare un po' di festa. È vero, perché tutte le persone che non conoscono l'industria pensano che sia un lavoro molto romantico. Purtroppo di romanticismo ce n'è poco, ecco. Ti dicono siamo a Ibiza e basta, non la vedi. Esatto. Lavoro come stewardess, che poi tradotto significa fare la schiava. Ah, ok. E nella stiva con i remi. A caricare il carbone. Lavora quelle 20 ore al giorno, dormi quelle 2-3 ore alla notte. Perché devi essere sempre a disposizione, quindi 24 ore su 24. Cosa avevi bevuto prima di scegliere questo lavoro? Bella domanda. Non abbiamo detto una cosa importante, è che non solo tu sei italiana, austriaca, ma che sei poliglotta, dici quante lingue parli? Diccelo nella lingua che parli. Allora, sì, adesso faccio un casino con le lingue. Cosa devo dire? I can speak English, je parle un peu de français, un petit peu, parlo espagnol e spreche Deutsch, parlo portoghese, no, questa me la sono inventata. Vabbè, senti, aggiungiamo frecce all'arco. Poi vabbè, in teoria parlerei anche un po' di senegalese, ma quello lasciamolo perdere, non ne parliamo. Come mai parli senegalese? Perché sono sposata con un ragazzo senegalese, ancora per poco, però sono sposata con un ragazzo. Ah, vabbè. Ma lui lo sa? No, non lo sa ancora. Che sei sposata? Quando è che siete sposati? A ottobre facciamo 3 anni. Beh, adesso ne parlo perché sono ancora un attimino arrabbiata, però chiudiamo questa parentesi e apriamone un'altra. Così che si dice sempre: chiudi la porta per aprire un portone. Portone di un castello con un bel principe dentro che smetto di lavorare, che si occupa di me. Ma oh, brava, diciamola tutta. Che tempo vi racconto la storia della mia vita, ma è un po' lunga. Tu hai vissuto, allora, tu hai vissuto in Italia sicuramente, poi ti eri spostata in Austria, giusto? Io prima sono andata in Austria, ho lavorato in Austria, mi sono messa i soldi da parte per pagarmi poi il viaggio in Australia e sono stata 8-9 mesi in Australia, ho lavorato in fattorie biologiche. Poi avevo conosciuto un ragazzo svizzero, ovviamente, e ai tempi aveva comprato un furgoncino Volkswagen del 67. Che romanticismo! Molto hippie, altro che chic, ero solo chic. In Svizzera col furgoncino fare gli hippie. In Australia con lo svizzero. In Australia con lo svizzero e il furgoncino. Poi mi hanno chiamato dall'Italia, dalla costa, crociere. Visto che avevo finito poi i soldi, ho detto vabbè, torniamo in Italia a lavorare. E sono imbarcata come tour escort e ho lavorato per quasi 2 anni e mezzo e lì ho avuto la fortuna, sfortuna di imbattermi in questo uomo fantastico, un ragazzo indiano che lavorava con security. Sono molto belli gli indiani. Amore a prima vista, sì, soltanto che dopo sono sbarcata, sono andata in India, sono stata 7 mesi, però poi questa persona si è rivelata... un'altra persona. Ho avuto un paio di problemi, però vabbè, diciamo che anche quella è stata un'altra esperienza, nel senso che poi sono tornata. Ma la vita è così, esperienze. Ero stata la prima volta 3 mesi e poi gli sono tornata in Italia, gli ho fatto la lettera di invito per provare a farlo venire e lui doveva dimostrare appunto che aveva un lavoro e che aveva un conto in banca. Però mi ha insaputa falsificato tutti questi fogli, perché nel frattempo era stato licenziato. I soldi forse non gli mancavano, era l'unica cosa che andava, però ovviamente poi l'ambasciata ha fatto tutti i controlli e l'hanno scoperto. E quindi ci stavi rimettendo tu. Mi hanno contattato, mi hanno detto: guardi, lei è stata accusata di immigrazione illegale. E io ho detto: cosa? Mamma mia, porca miseria, ragazzi. Cioè che è scesa dalle nuvole praticamente. Gliel'hai giusto mandata qualcuna, lo immagino. Io però non contenta sono tornata in India, sono andata all'ambasciata, ho fatto un gran casino perché io ero innamorata, cioè avevo proprio il prosciutto davanti agli occhi e... Ah, quindi ancora eri innamorata, cioè comunque questa roba non ti aveva fermato? No, perché poi col tempo è anche peggiorata, visto che poi mi ha fatto un interrogatorio, mi ha fatto capire che comunque era una cosa seria, io ai tempi proprio mamma mia genuotta. E poi niente, la seconda volta che sono tornata in India poi sono dovuta scappare perché mi voleva praticamente sequestrare. E con l'inganno. Come? Sì, con l'inganno. Come? Ho dovuto convincerlo che sarei poi ritornata per sposarlo. Invece poi per fortuna non mi ha più rivisto. Ma meno male, ti sei salvata in tempo. Porca miseria. Vedi l'amore, veramente prosciutto sugli occhi. Sì, noi donne siamo un po' vittime di questi amori passionali che poi si rivelano dei buchi nell'acqua. Sai, poi è anche difficile avere a che fare con altre culture. Nel senso, noi siamo abituati in un modo, poi effettivamente quando sei dall'altra parte del mondo, sei dall'altra parte del mondo devi sottostare, cioè comunque fai parte anche tu del gioco, ecco, non so. Sì, no, io ho sempre cercato di ambientarmi, proprio mi piace confrontarmi con diverse culture, diverse mentalità. Beh, diciamo che con l'indiano forse questa grossa differenza di cultura non l'ho neanche sentita, perché l'unico indiano cattolico me lo sono trovata io. Quindi sono rimasta quasi un po' delusa, perché io ero molto ai tempi hippie, quindi avevo il mio dio Ganesh che mi seguiva. Invece no, è andata male, mi smontava tutto il tempo. Adesso sono sposata con un ragazzo musulmano che non ho assolutamente nessun problema da quel lato lì, è più un problema caratteriale. Una caratteristica che ti distingue veramente nel vero termine della parola è la tua apertura mentale, perché no, veramente un bel genovese, no, e adesso esci da lì, vai, incontri un bel genovese. No, per carità per carità. Scusa, è andata in India, è andata in Australia, è andata nell'altro lato del mondo per non vedere i genovesi, ci mancherebbe. Senti, io ho sempre detto i romani, sono andata a vivere a Parigi, mi sono sposata un romano, tanto lontano per trovare uno. Quali sono i tuoi progetti? Pensi di continuare su questa barca oppure... ma vorrei da un lato, ma mi sa che non mi rinnovano il contratto perché sono stagionale. L'idea di farmi anche un inverno a caldo, sì, al freddo volevo dire, non è che sia molto contenta, anche perché l'inverno scorso per esempio ero alle Canarie. Beh, insomma, quando non si abitua bene e poi è difficile tornare indietro. Magari un bel imbarco ai Caraibi. Magari, no, vabbè, adesso vediamo, prima devo risolvere un po' di questioni familiari e poi vedremo. Senti, come va con i piedi? Hai finito? No, non ancora, ce n'è da togliere, sai, sto facendo di tutto, ma ne sta facendo nuovi, perché terribile. Sai, camminare scalza per quasi 6 mesi, non so se potete immaginare, ma non ve li descrivo che è meglio. Ecco, infatti. Buon lavoro allora. Senti Vale, grazie mille. Grazie a voi, quando volete, ho tante altre storie da raccontare. Sì, ma poi torneremo in barca con te a vedere quali sono gli sviluppi, insomma, del tuo lavoro e anche della tua avventura romantica, ecco, sperando che si concluda tutto in modo positivo. Sto già lavorando per altre avventure. Ah, bene. Non perde tempo, ha ragione. Brava. No, senti, no, si vive una volta sola. Brava, hai ragione. Ti aspettiamo sulla cotta, quanto prima. Sicuro. Ciao Vale. Grazie. Ciao. Oggi hai mangiato pane e simpatia. Ma veramente Maddalena stamattina ha fatto colazione con le pizzette. Io non so come faccia. Allora, diciamo che le mie ascoltatrici sapranno che io non mangio dolci, cioè mangio salato. Mi sveglio e mangio salato. Di salato, però per voi vi ho portato il pane al cioccolato. Grazie cara. Sì. Lo champagne. Certo, pizzette e champagne. Champagne beviamo dopo perché siamo super professionali. Hai ragione. Comunque, non si beve in servizio. Comunque noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Italiano con la valigia e vi ricordiamo i nostri contatti, perché è importante. Andate sul sito. Non partiva il jingle www.italianecolavaligia.com e l'altro jingle è tan tan. Ma scusa, tu stai chiedendo a una persona che non fa radio da 2 mesi l'indirizzo della nostra mail. Secondo te se la ricorda? No. Quest'anno, ragazze, abbiamo una lavagna e se non ci ricordiamo qualcosa di avere che mancano i gessi. Non abbiamo il gesso. Il prossimo che sbaglia prende una bacchettata sulle mani. E poi quest'anno Deborah ci fa fare la puntata in piedi. Sentite in piedi Maddalena, si deve tuffare sul microfono perché è una giraffa. Grazie Laura. Ma in senso buono. No, ma è colpa sua, è troppo alta. Ecco, adesso beata lei. Però dico in piedi, quindi ci sentiamo ancora più forte l'emozione. Vero? Sì, quando ci sgrida, siamo in piedi, quindi... La circolazione poi, da io Dio. Io devo mettere le calze, io ho tanta per contenere le vere varie cose, è colpa tua. Ma guarda che nella prossima puntata andiamo a trovare una persona che le viene varie cose, cioè il sistema così. Oh, i brividi, guarda, cioè riuscire addirittura a connettere una puntata all'altra. E non c'è. Adesso voglio vedere, insomma, bella, noi i concorrenti come fanno a prevedere il futuro. Sì, ecco. Noi ti abbiamo fatto una sorpresa e andremo a scoprire tutto del tuo passato, perché fai la furbetta quella. E non sappiamo bene, vorremmo qualcuno che ci racconti un po' bene la tua storia, perché... Come dire, conosci te stesso. Cominciamo conoscendo lei, poi passeremo a noi. Davanti. Infatti, due tempi. Vabbè, ciao. Ciao ragazzi. Buona settimana. Ciao. Italians. Italien. Italianes. Italianas. Con la valigia.